Il grande reset. Un programma con l'occhi da matto. E Simone Pizzi. Sì. Belli de casa, buon venerdì mattina a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Il Grande Reset, un episodio nel quale parleremo di qualcosa del quale forse alla maggior parte delle persone non frega niente, e come biasimale d'altronde. Però prima di entrare nel merito, insomma, di questo episodio, vi ricordo che invece la prossima settimana è un episodio che secondo me interesserà molto di più, perché si cambia totalmente argomento, si cambia completamente modalità, come è solito di questo programma, del quale devo dire sono molto soddisfatto. Pochi riscontri ma positivi, ma non importa, perché questi sono programmi di nicchia, sappiamo insomma che non cercano il numero, il consenso, come su Buongiorno un cazzo. Addirittura ho fatto fatica all'inizio a pensare addirittura di metterlo tra i feed reader, però insomma questa era un po' la mia intenzione, vorrei fare un programma magari per pochi intimi, però fatto in una certa maniera, e ogni volta cercando di cambiare argomento, a volte cercando di essere un po' più istruttivi, a volte un po' più beceri, e a volte, come nel caso della prossima settimana, fare un bel viaggio, un tuffo nella memoria, perché parleremo di cibo e memoria. Quale migliore link esiste, insomma, tra gli odori, i sapori e i ricordi più reconditi anche che abbiamo, insomma. Detto questo, vi ricordo che ieri sera non è andato in onda Walter Sbano con le orazioni della sera per questioni professionali, perché ricordate che la radio ci piace tantissimo, ma non è certo la nostra professione, ma soprattutto non è andato in onda l'episodio di Quandramo Futuro, perché alla fine Carlo non aveva preparato il documento. Sempre Carlo ultimamente un po' la pietra dello scandalo, ma ci sarà la prossima settimana, parleremo di fumetti, in particolare parleremo di Topolino, quindi insomma anche questa è una cosa da tenere in considerazione. C'è un nuovo podcast che oramai state capendo, insomma, che sta per arrivare, forse addirittura lo trasmetteremo questa sera in anteprima prima di Runtime by Night, forse, perché ancora dobbiamo deciderlo, ma sicuramente uscirà venerdì prossimo, quindi insomma oramai è imminente questo nuovo progetto, che ve lo spoilerò qua, si intitolerà Io vedo cose, o Vedo cose, adesso neanche mi ricordo bene. Comunque, da due conduttori assolutamente mal assortiti, due persone completamente diverse che parlano di temi che sono, possono essere i videogiochi, possono essere un film, possono essere una serie TV, ma possono essere anche recensioni di altro genere, ma in un modo assolutamente del tutto fuori dagli schemi, anche perché una delle due persone, in particolare Olivia, ha una visione del mondo totalmente diversa da come siamo noi abituati magari ad analizzare le serie, ad analizzare in maniera un po' più critica e anche tecnica, insomma. Però ecco, finalmente è un podcast che doveva arrivare, è arrivato, e vi ricordo che questa sera, e quindi partiamo poi ovviamente con il clou della trasmissione, vi ricordo che questa sera alle 23 c'è Runtime by Night. Ma quanto dura sto finale de batteria, de basso, de chitarra, di tutto quanto? Potevo mettere tantissime canzoni, tipo ad esempio la leva calcistica del 68, Una vita da mediano e via dicendo, ma in realtà questa mattina avevo proprio bisogno di questo sound, queste sounds dei Queen, proprio queste sonorità proprio così riconoscibili, e questa voce che mi ha fatto innamorare della musica, perché quando io ero ragazzino ascoltavo poca musica e soprattutto quella che ascoltavo era sbagliata, perché ero ragazzino un po', cioè in una fase di transizione tra quella versione noiosa di me giacca e cravatta è quella versione più sciamannata, che poi dopo è diventata successivamente con i capelli zeccosi e la gefia. Comunque, al di là di questo, si parla di calcio, perché l'altro giorno c'era, parlando con in una discussione, cioè poi io non, cioè qualcuno mi ha detto, io non riesco a capire perché il calcio c'ha tutta questa importanza. Questo secondo me è un tema focale, perché noi possiamo dire qualsiasi cosa sul calcio, perché è una cosa mainstream, quindi c'è stato il cazzo e via dicendo, però c'ha anche delle origini sociologiche, cioè nel senso, comunque c'è un fattore importante che determina il fatto che il calcio sia comunque un elemento importante nella vita e nella cultura anche dei popoli di tre quarti del pianeta, perché poi comunque il calcio non è soltanto un fenomeno da baraccone, diciamo così, un fenomeno da show, ma c'è anche tanta cultura dietro, c'è tanta letteratura, c'è tanta cinematografia, c'è tanta musica, c'è tanto discorsi, ci sono tanti discorsi dietro che si collegano soprattutto perché il calcio ha fatto innamorare tantissime persone, perché quando il calcio è nato alla fine dell'Ottocento, in linea di massima gli sport erano prevalentemente classisti, elitari, no? Cioè nascevano nella borghesia, nell'aristocrazia. Il calcio ci ha avuto la fortuna che sì, nasceva comunque sempre magari in ambiti di club, no? Quindi insomma il club della ginnastica, il club militare o via dicendo, però richiedeva un X numero di persone, questo X numero di persone, quindi era uno sport di squadra come il rugby e come altri giochi di squadra come ad esempio il cricket e via dicendo, però era uno sport più avvincente, era uno sport semplice da capire ed era uno sport semplice da giocare. Ovviamente poi con le differenze che nascevano quando si creavano le differenze tecniche, ovviamente quando emergeva quello più forte di quell'altro e quando le squadre si organizzavano meglio rispetto ad altre squadre, diventavano ovviamente più forti e magari vincevano i campionati. Però in origine, ovviamente, voi dovete immaginare questi con i garzoni e le camicie, perché si giocava con le camicie, insomma, spesso e volentieri di cotone ignorante oppure di lana, se non addirittura, e la maglietta con la quale, la casacca, l'uniforme con la quale giocavano, spesso se la riportavano dietro per tutta quanta la stagione, quindi non solo dovevano giocare ma dovevano fare anche attenzione a non spaccasse, che ne so, l'uniforme, perché non è che è come oggi che cambiano la maglietta due volte a partita per 22 giocatori sicuramente, poi dopo ovviamente chi sta in panchina magari no, quindi era un contesto completamente diverso e appassionava la gente proprio perché il gioco era comunque semplice da comprendere ed era divertente, era piacevole ed era anche uno sfogo ed era soprattutto una cosa replicabile, facilmente replicabile, anche se tu, quando ovviamente il calcio ha iniziato ad evolvere, hanno iniziato ad organizzarsi le federazioni, quando sono nati i campionati, quando nascevano i primi campioni, quando oramai diventava un fenomeno già abbastanza popolare, il calcio era replicabile nella vita di tutti i giorni, i ragazzini nella piazzetta, sotto casa, contro il muro, con un pallone di cuoio, con un pallone di plastica, con un pallone di pezza, con un pallone di carta, come facevo io, prendevo la carta di giornali, la cartocciavo, facevo una bella pallocca giù, scotch tutto il tempo e diventava insomma una specie di pallone da calcio, fino a che ovviamente a forza di calci si allentava lo scotch e si sbragava tutto quanto. Però ecco, diciamo che il calcio aveva questa grande prerogativa, che era quella della replicabilità, e tutti i bambini o gran parte dei bambini hanno giocato a pallone nelle piazzette, nei campetti, sognando di diventare quei campioni che vedevano in televisione. Vedevano in televisione negli anni 70 poco, ma quando li vedevano rimanevano tutti affascinati, perché ricordiamo che il calcio, nonostante essere stato uno sport popolare da subito e che piaceva praticamente a tutto il mondo tranne agli americani, comunque non è che era così invasivo in televisione, anzi si riuscivano a vedere solo i grandi eventi, oppure nel caso nostro negli anni 70 fino a una parte degli anni 80 le partite di calcio di Serie A venivano trasmesse, a volte qualcuna mezzo tempo, cioè un tempo, oppure il primo e il secondo tempo, oppure in differita, oppure parzialmente in diretta, oppure c'era quella storia, non so se ve la ricordate, quando eravamo ragazzini, che il derby Torino-Juve trasmesso in diretta tranne che nel Piemonte, ve la ricordate questa cosa? Perché ovviamente l'importante, cioè l'introito vero per le squadre di calcio era il biglietto, cioè così come per gli artisti del circo l'introito è il biglietto d'ingresso, la stessa cosa valeva ovviamente per il mondo del calcio, che sì, cominciava ad assumere aspetti più importanti, gli sponsor, i cazzi e i mazzi, però chiaramente il biglietto era ancora una cosa importante, tant'è che fino agli anni 80, fino a metà degli anni 80, insomma, diciamo quasi fino agli anni 90, si dava sempre conteggio di quello che era l'incasso dello stadio, e a volte c'erano degli incassi record incredibili che ovviamente aiutavano le società ad amministrarsi e poter poi fare quelle che erano le campagne acquisti, che erano campagne acquisti abbastanza importanti, ma non erano campagne acquisti così diciamo mastodontiche, così come ci sono oggi, con dei soldi che sono ovviamente completamente fuori scala, ma su questo poi ovviamente ci arriviamo. Insomma, diciamo che il calcio piano piano dalle sue origini in poi si è organizzato in circoli, in federazioni internazionali, in federazioni mondiali, e interagendo fra di loro si sono create ovviamente i campionati nazionali, i campionati internazionali, le coppe europee, e poi le coppe a livello mondiale, le coppe a livello di nazioni, e quindi c'è stato un movimento che è cresciuto in maniera secolare, cioè nel senso, comunque ci ha messo quasi 120, 100, 150 anni, insomma, se vai a vedere, comunque il calcio oramai più o meno esiste quasi da 150 anni, se considerate che la squadra per la quale faccio il tifo io, la Lazio, è nata nel 1900, che c'ha 123 anni, considerate che non è neanche tra le primissime squadre, cioè è una tra le prime squadre importanti in Italia, ma prime come nascita, però non è una delle più vecchie, sono squadre nate veramente a fine dell'Ottocento, insomma, quindi con un bagaglio più importante. Però poi alla fine tutto questo meccanismo si basava su un'interrelazione tra federazioni, tra una ufficializzazione che praticamente permetteva ai campionati di interagire fra loro e di costruire ovviamente una struttura di campionati tra squadre di club e squadre nazionali che erano compatibili fra di loro, anzi non solo, erano diciamo conseguenziali, a seconda di quello che succedeva in un determinato contesto succedeva anche negli altri contesti, e questo diciamo che è il modo in cui in generale lo sport si è organizzato fin quando non sono arrivati gli americani, in generale su questo, perché gli americani hanno una visione del concetto di lega sportiva che è completamente diversa da tutto il resto del mondo, dal mondo occidentale e non solo, perché ovviamente mentre tutto il mondo era compatibile con un certo tipo di concezione dal punto di vista sportivo, delle organizzazioni, delle federazioni, dei campionati, delle qualificazioni, di tutto quello che alla fine è, gli americani hanno una visione proprio più elitaria, no? La costruzione delle leghe fatte in maniera tale che il succo, il surplus, il best of di quel tipo di sport sia comunque interamente ritrovabile all'interno di quel contesto che ovviamente nasce per ragioni economiche, ma ci arriviamo a questo perché ovviamente è secondo me poi il punto focale di un movimento che da popolare poi chiaramente ha strabordato e è diventato qualcosa di oltre, qualcosa di diverso. Oh ragazzi, sono tornato in città e quindi tutto a posto, vabbè, questa sono canzoncine dedicate al mondo del calcio. Dopo c'è un'altra, insomma, che è stata resa famosa, diciamo che no, la canzone era famosa, però poi chiaramente è stata riportata in auge dai tifosi del Liverpool. Già immagino, insomma, che immagino che capiate o abbiate memoria, insomma, di qual è la canzone, ma poi ne parliamo dopo. Comunque, il discorso adesso, poi c'è un intervento che volevo farvi ascoltare, ma prima di farvi ascoltare, comunque, diciamo che secondo me il punto focale di un movimento sportivo come quello del calcio, che ha raggiunto poi ovviamente dei livelli forse oggi fuori controllo in qualche maniera, che a volte ci fanno venire in mente che sarebbe ora che ci sia un reset. Però il reset chiaramente potrebbe essere una deflagrazione devastante, cioè, sebbene io ho notato, perché sono comunque un osservatore di queste cose, voi sapete che poi alla fine io sbircio, faccio quella, vedo che stanno nascendo delle realtà alternative, è un'altra cosa, cioè, nel senso, poi finisce e diventa un altro sport, ma anche con la Superlega potrebbe diventare anche un altro sport, perché poi dopo cerchiamo un attimo di ragionare su questo. Però ecco, diciamo che secondo me ci sarebbe bisogno di un reset, ed un reset di quelli un po' devastanti, che chiaramente creerebbero dei danni incalcolabili. Però il problema è che a volte, piuttosto di continuare a trucinare un cadavere, perché ovviamente sennò i danni sarebbero più forti e più difficili da calcolare rispetto al ucciderlo e risuscitarlo, diciamo così, poi alla fine si tende a precipitare sempre più nel bordo. Però diciamo che adesso io vi faccio sentire un intervento. Stavo contattando dei giornalisti, uno in particolare che mi avrebbe sarebbe anche intervenuto, insomma, diciamo così, però come con un audio registrato. Però poi ho pensato che secondo me in questo momento per parlare di calcio serve una voce di una persona che nel calcio ci vive, anche se a livelli inferiori, perché voi dovete considerare che oggi noi vediamo il calcio emerso, ma poi c'è tutto il calcio sommerso, la Serie D, la Lega Pro, tutti il semiprofessionismo, la prima, la seconda, la terza categoria, le varie divisioni inferiori, il calcio giovanile, tutto quell'ambito dove girano decine di migliaia di operatori che lavorano all'interno di un contesto che è comunque industrializzato e che comunque poi alla fine anche lì, insomma, si finisce sempre per vedere cose, insomma, un po' distorte, giocatori presi molto giovani a dei prezzi inconcepibili solo per fare favori economici ai club, alle piccole società o via dicendo, insomma, tutta una serie di storie. Però comunque io vorrei farvi sentire l'opinione di Nicola Romano, che è un allenatore delle categorie, cioè un allenatore in senso a tempo pieno, diciamo delle categorie inferiori, è juventino. Questa è una cosa importante, perché non lo voglio dire perché in senso negativo, ma lo dico proprio in senso positivo, cioè comunque la sua idea è, diciamo, un'idea che deve tenere in considerazione questi due aspetti: uno, l'essere juventino, quindi una squadra che è candidata, anzi una delle promotrici, diciamo, della Superlega, di cui vogliamo parlare oggi, anzi andiamo a parlare, poi lo concludiamo così, poi spieghiamo un attimo che cos'è questa Superlega e come ci siamo arrivati, e il fatto che sia comunque una persona che vive all'interno del mondo del calcio e che quindi vive ancora lo sport come lo vivevano all'inizio del Novecento quelli che facevano sport, cioè nel senso quelli che creavano questi nuovi sport, che erano magari pionieristici, oppure come magari negli anni 70 si viveva il calcio ancora, quando i giocatori sì diventavano giocatori conosciuti, famosi, però poi alla fine non erano, no? Nel senso non erano i ricconi irraggiungibili di oggi, no? E quindi c'è, cioè, quello spirito ancora legato allo sport nel senso più olimpico del termine. Ascoltiamoci Nicola. Io sono tra i contrari alla Superlega, innanzitutto perché dal mio punto di vista manca la base di ogni competizione sportiva, cioè il merito sportivo, perché per partecipare a questa competizione non bisognerebbe guadagnarsi, diciamo, il pass sul campo, ma le squadre verrebbero scelte a tavolino ed è come se oggi venissero decisi i finalisti della finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Quindi non ci sarebbero le qualificazioni alle Olimpiadi e non ci sarebbero neanche le gare eliminatorie alle Olimpiadi. E mi sembra veramente un'assurdità. Il merito sportivo è ovviamente alla base di tutti gli sport e voglio dire, non è che perché ti chiami Juventus, Real Madrid o Manchester City hai dei diritti diversi dagli altri. E qualsiasi cosa nello sport va guadagnata sul campo. Questa cosa mi sembra anche irrispettosa poi nei confronti dei tifosi. Il tifoso va a vedere la squadra allo stadio, vuol vedere la squadra che lotta per quello per il quale sta lottando, che sia la Champions League o la retrocessione. Inoltre creerebbero un modello di competizione molto simile al modello americano, ad esempio, dell'NBA, quindi senza promozioni, senza retrocessioni, dove però in quel caso il tifoso è più uno spettatore, anzi è quasi più un cliente, mentre il tifoso in Europa di calcio la vive proprio come una fede. Il tifoso vuole andare allo stadio a tifare la propria squadra, ma non vuole andare a mangiare popcorn allo stadio per vedere in un anno 6 volte Real Madrid e Paris Saint Germain. Anche perché dal mio punto di vista un conto è vedere una semifinale di Champions Real Madrid Paris Saint Germain con andata e ritorno o la finale, dove comunque ci sarebbe un'attesa per quel tipo di partita. Uno, perché ovviamente ci si aspetta che sia una bella partita, ma seconda cosa perché sportivamente ha una certa valenza, una certa importanza. Se nel corso di una stagione vedo 6 volte la stessa partita, intanto non ho più aspettativa e dall'altro lato ha veramente poca importanza, perché ipotizziamo, non so, se fosse nel campionato italiano 6 volte Inter-Juve, vuol dire che sarebbero 18 punti a disposizione in queste 6 partite, posso anche perderne una, due. Cioè dal lato sportivo secondo me c'è proprio manca proprio la base, ecco, a questa competizione. Per ultimo, le squadre promotrici di questa Superlega hanno ovviamente come solo e unico fine aumentare i propri ricavi. Il problema è che loro non riescono a sostenere il loro modello di calcio, il loro modello di business, diciamo, perché sono squadre che fanno business. Ma diciamo, secondo me, che per risanare i propri bilanci non devono rovinare questo sport. Dovrebbero forse pensare in maniera diversa a come spendono i loro soldi e a come dovrebbero guadagnarli, senza mettere mano a regolamenti sportivi, creare nuove competizioni ad hoc e probabilmente allontanare le persone da questo sport. Dunque, io partirei proprio da quest'ultimo aspetto, perché... Allora, facciamo così, intanto ringraziamo Nicola, però ecco, secondo me il modello di business, secondo me, è il punto focale. Poi il merito sportivo è un altro punto focale, che però purtroppo in questo caso viene un po' in secondo piano, anche se secondo me dovrebbe essere il fulcro del discorso. Perché dico questo? Dico che se vi ricordate, c'è stato un momento in cui il calcio inglese, che era un movimento calcistico sempre di rilevante importanza, insomma, tra i primi 4 campionati a livello europeo, tra i campionati più conosciuti a livello mondiale, non aveva una posizione di dominanza, non ce l'ha mai avuta fondamentalmente, anzi forse la posizione di dominanza ce l'ha avuta soprattutto negli anni 80 e 90 il calcio italiano, cioè piuttosto, no? E, tanto mi squillano i cellulari, vabbè. E poi dopo che cosa è successo? È successo che loro a livello di lega, quindi a livello di business, hanno costruito un discorso, hanno fatto un percorso, diciamo, collettivo a livello di movimento, che è stata una cosa importante, mentre che in Italia questa cosa non c'è mai stata, anche quando il calcio italiano era importante, ma non esisteva un contesto di movimento, esistevano delle singolarità che ovviamente riuscivano ad emergere, ad avere determinata importanza anche dal punto di vista economico, e quindi riusciva a portare il meglio del calcio mondiale al campionato italiano. Questo ovviamente trainava anche gli altri in qualche maniera, no? Perché creava dei link anche per le squadre inferiori, anzi a volte le squadre inferiori riuscivano ad avere contatti con determinati procuratori proprio perché questi procuratori cominciavano ad avere un contatto con l'Italia, insomma, diciamo così. Poi oggi, vabbè, si parla dei procuratori, allora era un po' diverso come funzionavano, però poi capitava che la Juve ad esempio comprava Michael Laudrup aveva 18 anni e lo mandavano a giocare un anno o due anni in prestito alla Lazio, e Michael Laudrup diventava un fenomeno e poi tornava giustamente alla Juve così come doveva essere. Quindi poi alla fine il mondo del calcio in Italia è stato sempre satellitare, no? Cioè nel senso, c'erano i grandi club e tutti i club sotto che vivevano, diciamo, di riflesso di tutto quello che era il mondo, insomma, più quello emerso, quello sopra, insomma. Mentre che questo discorso in Gran Bretagna è stato fatto in maniera diversa, è stato fatto in maniera organica. Si è costruita la Premier League, che non è di per sé in effetti legata al campionato, ai campionati così come erano prima. La Premier League di per sé è una lega indipendente dal campionato, dalle federazioni britanniche, ma è comunque linkata alla prima divisione, cioè quindi alla Championship, quindi quella che sarebbe la serie, quella che poi è diventata la Serie B inglese fondamentalmente. È legata perché ovviamente sono promozioni e retrocessioni. Però loro hanno fatto questo tipo di discorso proprio per creare introiti che fossero distribuiti in maniera più omogenea all'interno del calcio inglese. Oggi una squadra di retrocessione del campionato inglese, ma anche squadre della Serie B inglese, si possono comprare giocatori che la metà delle squadre italiane, forse tre quarti delle squadre italiane, compresi alcuni top club, non si possono permettere. Perché questo? Perché è stato fatto un investimento a livello globale. Questo è stato ovviamente il bene e il male da un certo punto di vista, perché gli ha permesso ovviamente di distribuire introiti all'interno di tutte le leghe, ma allo stesso tempo poi ovviamente ha costretto lo main sponsor, la British Telecom, a sborsare sempre più soldi per avere le esclusive di questo fenomeno, fino a che anche lì c'è stato un breakout, cioè è stato un elemento di rottura che probabilmente piano piano nei prossimi anni scenderà a cascata sul calcio inglese, e ovviamente un ridimensionamento di quelli che sono i diritti televisivi e via dicendo. Questa cosa è stata fatta anche in Italia negli anni successivi, ma mai in maniera omogenea, sempre in maniera privilegiata. Cioè il calcio italiano in maniera particolare, ma questo dico, succede anche in Spagna, è molto focalizzato sui propri top club, perché noi abbiamo questa mentalità in Italia, cioè costruiamo delle super squadre forti, sosteniamole in modo che quando andiamo all'estero ci facciamo una bella figura, se no parlano male di noi. È come andare in giro a Monterodondo, la Liga italiana, poi fondamentalmente, cioè il principio è lo stesso, cioè è per avere, poi ovviamente sono tutta una serie di storie anche a livello economico che chiaramente spingono, diciamo, i campionati tipo Spagna e Italia a investire più su un certo tipo di discorso piuttosto che sul movimento, e questo ha portato il movimento calcistico italiano a una fase di devastazione. Cioè ovviamente oggi il campionato italiano, pure che sia ancora considerato uno dei quattro campionati più importanti a livello europeo, non è più un campionato competitivo. Non lo è molto al di sotto dei tre campionati come Spagna, Francia e Inghilterra, anche se poi il campionato francese è più denomina, perché se levi il Paris Saint-Germain. E questo lo vediamo nelle coppe europee. Da quant'è che l'Italia non vince una coppa europea, a parte la Conference League che ha vinto la Roma l'altro anno e che forse vinceranno quest'anno o Lazio o Fiorentina, che è una coppa buttata lì proprio per Dio, regà, dai, oh cazzo, dai, vincetela una coppa, porca puttana. Perché ovviamente che succede? Che questa iperprofessionalizzazione, questa ipercapitalizzazione del calcio porta i grandi top club a investire in una maniera spropositata su giocatori per accaparrarsi il meglio della creme mondiale a dei costi che chiaramente devono essere inaccessibili per gli altri club, altrimenti ci sarebbe una competizione. Invece loro non la chiedono la competizione, loro vogliono la massificazione delle risorse sconcentrate su determinati club. E questa è una cosa abbastanza triste, se voi ci pensate, perché distrugge il movimento di base e amplifica ovviamente la posizione dei grandi club. Però c'è un momento in cui, c'è stato un momento in cui, qui nasce il discorso della Superlega, questo modello di business fatto di comprare giocatori a 200 milioni di euro e pagarli 15-20 milioni di euro all'anno è chiaramente, ovviamente anche giocatori inferiori, perché ovviamente non serve solo comprare il top player, ma serve anche acquistare tutta una serie di giocatori che potrebbero essere utili alle altre squadre, ma che loro prendono a dei prezzi spropositati per tenerli in panchina, in modo che ovviamente questi giocatori, poi dopo c'è il giocatore intelligente che dice, vabbè, sti cazzi, guadagnerò la metà di quello che devo guadagnare, almeno gioco, cioè nel senso almeno mi diverto, se no poi alla fine diventa un po'. E diciamo che questo è stato il motivo per cui nasce la Superlega, cioè ossia tutti quei main sponsor dei vari campionati non riescono più a sostenere questo modello di business delle squadre che lo richiedono e che hanno centinaia di milioni di euro di debiti, e quindi nasce ovviamente l'opportunità di costruire una Superlega, che è una lega fittizia fatta dei super top club a livello mondiale e che raccoglie main sponsor a livello globale, quindi fondi americani fondamentalmente, perché il modello è americano, quello è un modello americano. Gli americani, che fino a 20 anni fa non sapevano manco come era fatto il gioco del calcio, quando l'hanno scoperto hanno dovuto mettere ovviamente le mani anche su questo, chiaramente distruggendo il modello, perché il capitalismo estremo questo fa, distrugge i modelli. Runtime Radio non è semplicemente una web radio. Il nostro progetto nasce come realtà di aggregazione di tantissimi programmi nati in podcast. Il podcast è e resterà sempre il nostro core fondamentale. Cerca Runtime Radio su Spreaker.com e troverai tutti i nostri programmi. Runtime Radio, quelli che sono arrivati per primi. Vedo in chat che c'è una certa partecipazione su Walter e Francesco, stanno facendo comunque un discorso sul fideismo legato al mondo del calcio. Io non voglio entrare in questo aspetto, magari una volta ne parliamo. Posso solo dire che, cioè, vabbè, fideismo nel senso più estremo del termine, secondo me non dovrebbe essere applicabile a niente, in prescindere dal calcio o via dicendo. Questo può valere ovviamente per la politica, per la religione e tante altre cose. E diciamo che l'affezione, l'amore per la propria squadra, anche i sacrifici che molti giocatori, cioè molti tifosi fanno per seguire la propria squadra, per tifarla, spesso e volentieri è il motivo trainante che spinge la gente a comunque ad avere questo legame, no? Questa cosa importante nella loro vita, che io non condanno, non ho mai condannato, anzi io stesso devo dire la verità, in generale, e questo chi mi conosce lo sa, a me le partite di calcio fondamentalmente mi frega fino a un certo punto, cioè a me mi dispiacerebbe la distruzione del calcio semplicemente perché non potrei vedere la Lazio, perché sennò alla fine fondamentalmente a me neanche mi frega niente, cioè nel senso, anzi ritengo il calcio un mondo brutto, oscuro e corrotto che andrebbe formattato da zero. Comunque va bene, torniamo un attimo al discorso della Superlega. Questa Superlega che ovviamente viene costruita per sostenere un modello che chiaramente anche in quel caso prima o poi si distruggerà, ma però poi a quel punto, come dice magari Puccio qualche volta, no? Dice vabbè, però è come il modello americano, che gli sport hanno diverse leghe. Sì, però poi le leghe non interagiscono fra di loro, a meno che poi dopo non si fanno delle, diciamo, delle sopra leghe che praticamente prendono, che ne so, chi vince l'NBA con chi vince la lega del basket, il cazzo imperio, cosa che non credo che succeda, no? Questo che poi che cosa comporta? Comporta che poi diventano proprio due sport diversi, che già è cambiato tantissimo il gioco del calcio, ma in generale diventano due sport diversi perché chiaramente possono cambiare regolamenti. Cioè, ad esempio, voi sapete, il campionato americano fino a un po' di tempo fa poi chiaramente si è omologato, diciamo, perché si è internazionalizzato. Anche gli americani, anche gli USA hanno comunque conosciuto il calcio internazionale, l'hanno iniziato a vedere sotto un altro tipo di ottica, come pubblico, dico, non tanto come investitori, che lì già c'è un discorso diverso, perché comunque la Major League è diventata professionistica, lo è sempre stata, però è diventata effettivamente professionistica non tantissimi anni fa, insomma, no? Però ecco, loro c'avevano il campionato, vi ricordate quando c'era Chinaglia, Beckenbauer, tutta questa gente, che Pelé, che giocavano nei Cosmos, no? Cioè, nel senso, comunque c'era quel periodo in cui tutti questi giocatori andavano a finire la loro carriera in America, perché comunque te pagavano e vivevi bene e insomma, vabbè, c'era tutto un altro modo, no? C'era già la visione dello show business, no? Della partita spettacolo, quindi tutta una serie di determinate cose. Però loro, per esempio, c'avevano sta regola che le partite non potevano finire pari, e quindi si facevano i tiri liberi, cioè praticamente c'era questa specie di rigori in movimento. Alla fine della partita, se finiva in pari e ne dovevano tirare 5 per parte, si prendeva la palla, si partiva da centrocampo, si arrivava fino a un certo punto e si doveva tirare in porta, e quindi erano tipo dei rigori in movimento, solo che si tirava leggermente da più lontano, e qui chi vinceva poi vinceva la partita e si portava a casa i punti della vittoria, perché in America non era concepito questa cosa del... Quindi diciamo che in una Superlega, per essere iper spettacolarizzata, per portare poi il ritmo all'estremo, no? Perché poi ovviamente cioè, il problema è quando le partite sono noiose, probabilmente si inventerebbero anche delle regole che trasformerebbero ulteriormente lo spettacolo e lo sport. Quindi a quel punto la compatibilità tra quel tipo di calcio e un altro calcio, il calcio quello tradizionale delle federazioni regolari, diventerebbe proprio un'altra cosa, oltre a non essere giusto comunque il fatto che tu entri in un contesto dove guadagnerai 10 volte tanto quello che guadagnano gli altri club per partecipare nei stessi campionati che partecipano gli altri club, ovviamente senza storia, perché a quel punto non ci sarebbe proprio più competizione, no? Quindi qui rientriamo poi al merito sportivo, che è quello del dire: oh raga, ma di che cazzo stiamo a parlare? Cioè, nel senso. E vabbè, questo è un po' il discorso di fondo di questo tipo di movimento, no? Il movimento che perché c'è questo contrasto? Ovviamente Walter ti direbbe: sì, certo, ma c'è questo contrasto, questa guerra, perché la UEFA e la FIFA non vogliono, quindi le federazioni tradizionali, diciamo così, quella europea, quella mondiale, non vogliono ovviamente ci sia, si entri in competizione, ci sia un competitor nuovo, una nuova lega che porterebbe via soldi, diritti televisivi, con tutto quello che la FIFA in maniera particolare è diventata, quindi questo grande catafandro super corrotto di gente che mangia a gogo. E sono d'accordo su questo tipo di discorso. Dall'altra parte, se noi invece dobbiamo vedere la cosa anche dal senso di vista proprio strettamente sportivo, questo modello, quindi questa costruzione del movimento calcistico a livello mondiale, non può funzionare con il modello americano, che è un modello unico, un modello nazionale, un modello di un sistema che non è lo stesso sistema che c'è tutto il resto del mondo. Ed è per questo che il calcio ha funzionato, e funzionava quando c'erano i blocchi sovietici, quando c'erano tutte le altre realtà che erano totalmente incompatibili magari col mondo occidentale, perché quella regola era quel modo di fare, quel modo di organizzare, quel modo di fare quel tipo di sport era compatibile con tutti e permetteva a tutti di poter partecipare in egual maniera. Infatti, se vedete, in 100 anni, in 50 anni, 60 anni, 70 anni, con te, dei campionati del mondo, sì, ci sono state le squadre predominanti, c'è stata l'Italia, il Brasile, la Francia, però poi alla fine, cioè, voglio dire, tantissimi mondiali sono stati vinti da tantissime altre squadre. Quindi, e questo ovviamente in un contesto dove una squadra che partecipa alla Superlega parteciperebbe alle proprie, alla propria Lega Nazionale e alla Lega Europea, cioè quindi alle vari campionati europei, non ci sarebbe storia, non ci sarebbe competizione. Poi ovvio che nel calcio succede sempre tutto, però e questo alla fine è quello che dobbiamo ragionare, non è sul se legalmente, se ci sono i cavilli del fatto che allora la corte de Barcellona ha detto che crea un precedente. Qui il problema è proprio organico. C'è tutto un movimento fatto di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, anzi forse anche di più di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, che si oppone a un discorso che è puramente economico, di un modello di business che ovviamente ha bisogno di questi fondi americani che oggi arrivano, stanno entrando anche nel campionato italiano, abbiamo visto insomma i risultati che hanno ottenuto fino a mo', insomma, però comunque a loro alla fine gliene frega un cazzo di vincere la coppa, gli frega di fa comunque movimento finanziario, chissà che ci ripuliscono poi, no? Ma questo è sempre successo. Vabbè, comunque dai, io questo un po' è stata la mia opinione su quello che secondo me sarebbe un po' la fine del calcio, perché poi non risolve, cioè semplicemente anestetizza il problema dando sollievo ai debiti di centinaia di milioni dei top club europei, che poi si ritroverebbero ugualmente nella stessa situazione fra un po', perché dovrebbero poi comunque alzare l'asticella. Ecco, io quindi direi ai grandi club europei come Barcellona, Real Madrid, Juventus, Paris Saint Germain di provare un attimo a sistemare le cose internamente e dare un supporto a tutto il movimento, o andare in galera se avete fatto delle cose che non dovete fare, o prendervi i punti di penalizzazione se poi dopo alla fine avete fatto cose che non dovevate fare. Però questo discorso poi dovrebbe essere esteso a tutto il movimento, non può essere preso solo un capro espiatorio. Quindi il problema è che secondo me il modello inglese, in maniera più obiettivamente concepita, quindi senza dover stare lì a fare un'emorragia dei soldi, quindi dare poi un cap insomma alle cose, cioè nel senso mettere un tetto, poi ovviamente mettere dei limiti a quelli che sono i movimenti finanziari, secondo me creare diciamo degli introiti dal punto di vista dei diritti, delle esclusive e via dicendo, che dia un vantaggio a tutto il movimento e quindi sostenga anche le squadre minori, questo forse è l'unico modello che dovremmo tenere in considerazione, un modello più equitario, che ovviamente non è quello che vogliono gli americani. Ah, che arrivano fossati, ma io che ne so come si fa. Comunque questa canzone non c'entrava niente, solo che mi serviva una canzone e ovviamente mi sono fatto pescare dal sistema di regia automatication. E niente ragazzi, dai, comunque volevo farla sta puntata perché alla fine non è una questione di esprimere opinioni in generale, ma semplicemente quella di dire un po' la nostra, un po' pure su questo, di dare un po' una dimensione a questa cosa, mettere un punto, parlarne, oppure semplicemente raccontarla come situazione, quella della Superlega, del calcio, che oramai è veramente, sta cannibalizzando se stesso, diventa come un organismo che digerisce un corpo dall'interno, cioè quindi è veramente una cosa abbastanza triste per quelli che magari come noi che per anni e anni, forse anche un decennio, insomma, magari sono andati con la pioggia, col sole, col freddo, col caldo mortale, con le botte, con i fumogeni, con le fughe, con le arrampicate, con le scavalcate, con i motorini, con la macchina, a piedi, con i mezzi, contro i tifosi avversari, scappando dai tifosi avversari, tutti quegli anni che alla fine sei stato allo stadio a sudare, a faticare, a cantare, a strillare, a tornare a casa senza voce, a essere contenta, a essere triste, a essere deluso ed essere felice, a piangere perché comunque la tua squadra del cuore ha vinto o ha perso. E quello era comunque, anche se capisco che molti non lo capiscono, il bello di un qualcosa che comunque fa parte di noi, proprio fa parte del nostro, nella nostra cultura, del nostro tessuto, del nostro modo di vivere, che comunque ci ha appartenuto. E sti cazzi se gli altri non lo capiscono, gli fa schifo, non gli interessa e via dicendo, perché alla fine il calcio è anche passione, tutto ciò che è passione in qualche maniera è bello, perché comunque ci dà quel frizzico di vita che altrimenti probabilmente ci perderemo per strada, così come tanti altri frizzichi di vita si stava a perdere per strada, e questo è un po' triste, no, se ci pensate. Detto questo, io vi ricordo che la prossima settimana parleremo di cibo e memoria. Se avete un ricordo in audio, non in testo, se avete un ricordo, quindi un piatto o una pietanza o un cibo specifico preferito e un legame, quindi un suo ricordo specifico, ci piacerebbe che ce lo raccontaste. Ringrazio tutti quelli che già lo hanno fatto, mi aspetto insomma di ricevere altri audio che sarebbe carino, e anch'io vi racconterò ovviamente i miei tuffi nella memoria grazie ovviamente a quello che è il cibo. Una puntata più leggera, più simpatica, dove insomma cercheremo di raccontarci un po' cose che alla fine comunque è sempre bello ricordare, no? I profumi della nonna. E vi ricordo che questa sera alle 23 c'è il Runtime by Night, parleremo di cinema in senso generale, e poi vedrete, ascolterete in che modo, e poi forse prima di Runtime by Night ci sarà l'anteprima in streaming del nuovo podcast Vedo Cose di Marco Gualdi e Olivia Quattrocchi, che ovviamente abbiamo spoilerato, vabbè, quindi sti cazzi, podcast che invece uscirà venerdì. Per quanto riguarda me e Michela, domani mattina alle 8:30 con Disordinati Informati, e poi tutto il resto della settimana ricomincerà naturalmente. Ricordatevi solo che domenica dalle 8:30 in poi c'è The Best of Runtime, tutto il meglio che è stato trasmesso in streaming, in live, e tutto il meglio che è stato pubblicato in podcast.